Ho lasciato che passa il tempo a curare le nostre ferite, a invertire l'inerzia di questo momento che sembra non voglia finire. Ho provato a frenare l'istinto, a rinchiuderlo nella ragione, ma ogni volta che provo a fermarlo continuo a seguire la sua direzione. E tutto si riavvolge, sono mille passi avanti a te, che sei mille passi indietro. Tutto si confonde, tranne quella voglia che ho di te, forte più di me. Mentre il mondo si addormenta, non ti levo dalla testa. Troppo ghiaccio dentro il drink. Ti vedo ovunque a Parigi, siccome souvenir. C'è troppo fumo dentro questa suite. Luci rosse come al Moulin Rouge. Ma io non so dove ti avevo già vista. Oh my god, dentro una rivista vintage. Tu mi fai stare chill in una vasca. Black and white come un film anni 60. Shari, sei qui fra le mie mani. Champagne dentro i bicchieri. Che importa del domani? Hey baby. Mentre il mondo si addormenta, non ti levo dalla testa. Allora spegni tutto e vola avec moi. Siamo a Parigi alle 9, sono chance di te. Quando tutto si riavvolge io conto i passi, altri mille passi stavano.